Il leone e il pittore, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. In un quadro era dipinto un leone enorme e forte, preso e vinto da un solo uomo e messo a morte. Gloriavasi la gente nel vedere un tanto ardire, ma un leon ch'era presente prese a dire: «Fantasia! Tutto mio questo valore io scommetto che saria se un leon fosse il pittore». Fine della favola. Il leone e il pittore. Questa registrazione è di dominio pubblico.